A proposito di liceo, torniamo al liceo, sì. È stato Golgia, nel V secolo avanti Cristo, a spiegare nella difesa di Elena che la parola è un dio potente, che pur avendo esile il corpo può realizzare grandi cose, come rendere grande ciò che è piccolo, debole quello che è forte, chiaro lo scuro e viceversa. Una dichiarazione di apparente relativismo che turbò assai le menti pensose dell'epoca. Platone, per controbatterla, in pratica inventò la filosofia, e che Dio lo perdoni. Di fatto il sofista siceliota esercitava ad Atene la professione del maestro d'oratoria, ed è probabile che quella formula, più che mettere in dubbio l'ontologia dei predicati, intendesse sottolineare i vantaggi che si potevano trarre dalle sue lezioni. Si riferiva naturalmente alla parola parlata, anzi declamata in assemblea, che era allora l'unico strumento noto di comunicazione di massa, e il concetto base era quello per cui chiunque ne padroneggiasse la tecnica aveva delle ottime possibilità di gabbare il prossimo. Che non sarà un'affermazione ineccepibile sul piano morale, ma il vantaggio, se non altro, di essere sincera. I filosofi, in nome della verità assoluta, hanno fatto più danno. Se vi chiedete cosa diavolo c'entrino queste vecchie polemiche con i nostri tempi agitati, vuol dire che non avete seguito le vicende che hanno scosso Milano nella settimana trascorsa, che non avete letto in particolare il testo dell'accordo siglato a livello locale tra i sindacati confederali e la TM, quello che ha posto fine giovedì all'alba allo sciopero selvaggio presunto tale degli autoferrotranvieri. Sì, d'accordo, quello non era un testo da declamare in pubblico. Abbiamo superato la fase della comunicazione orale, come si dice, e oggi è la carta che canta. Ma di testi altrettanto ambigui, altrettanto capaci, se non proprio di rendere chiaro quello che è oscuro, certamente di oscurare quello che è chiaro, e Golgia in persona non avrebbe saputo dare esempi altrettanto significativi. E dire che gli estensori avevano davanti a sé un problema titanico, quello di far sì che ambo le parti potessero sostenere d'aver vinto. Dovevano assicurare ai lavoratori incazzati che nessun ulteriore sacrificio in termini di orario e flessibilità veniva loro richiesto in cambio di quei pochi maledetti euro cui tutto sommato avevano già diritto, e di permettere al tempo stesso all'Albertini di vantarsi, come suo costume, di aver inflitto a quei riottosi delle perdite sanguinose. E dovevano sciogliere, soprattutto, il nodo di un accordo locale che vale come integrazione a un contratto nazionale che gli scioperanti avevano già rimandato al mittente e che adesso, in nome degli euro di cui, gli si chiedeva di trangugiare al prezzo di rompere la solidarietà con i colleghi delle altre sedi. Dovevano, insomma, assicurare le possibilità di una doppia opposta lettura. E hanno fatto del loro meglio. Hanno scritto, per citare un passaggio, che le parti si riservano di sottoporre la presente ipotesi ai rispettivi organi di riferimento per sciogliere la riserva entro il 31 gennaio 2004, che sembra una banalità, ma siccome il 31 gennaio è la data entro cui va confermato l'accordo nazionale, banale proprio non è. E hanno aggiunto per buona misura che l'accordo impegna a riavviare il confronto sulla proceduralizzazione del conflitto, che in italiano non vuol dire nulla, come può capire chiunque cerchi la parola proceduralizzazione sul vocabolario, ma in gergo sindacale indica la disponibilità ad accettare delle limitazioni alla libertà di sciopero, tipo l'obbligo del preavviso e via dicendo. Non hanno assunto degli impegni precisi, ma hanno fatto balenare così la disponibilità ad assumerne, secondo una tecnica che in teoria dovrebbe essere sentita da tutti come una presa in giro, ma in pratica è servita a mettere d'accordo le parti sulla base di un equivoco calcolato e programmato. Hanno dimostrato, insomma, che la parola è un dio potente che, pur avendo esile il corpo, permette, se necessario, di far ripartire i tram. Beh, non si può fare a meno di ammirarli, E anche se le competenze necessarie per ottenere risultati del genere non sembrano esattamente quelle utili a far funzionare i servizi di una grande città sotto il profilo delle relazioni industriali, bisogna ammettere che, quanto a sofismi, i loro portatori non lasciano nulla a desiderare. la cultura classica, tutto sommato, serve sempre a qualcosa. Sarà per questo che vogliono andare tutti al Bercy.